Now, scientists call this disease bromidrosis. And, well, they should. Even Napoleon knows that. But us regular folks, who might wear a tennis shoe or an occasional python boot, know this exquisite little inconvenience by the name of stinkfoot. You know, my python boot was too tight. I couldn't get it off last night. A week went by, but now it's July. I finally got it off, and my girlfriend cried. You got stinkfoot. Stinkfoot, darling. Your stinkfoot puts the hurts on my nose. Stinkfoot, stinkfoot, I ain't lying. Can you rinse it off, do you suppose? Yep, I don't. Yep, I don't. Yep, I don't. Bring the slippers, little puppy. Yes, it's a good dog, yes. Arf, arf, arf. Song for you about flying saucers. This song is going to be sung for you by George, and the name of the song is Inca Roads. E allora ci siamo inoltrati nel tempio della musica rock in una città molto a nord che si chiama Helsinki. Capitale della Norvegia ospitò nel 1974, ben 16 anni fa, Frank Zappa, che si presentò con questa band che ha già annunciato. Ricordiamo George Duke, tastiere e voce, Ruth Underwood, vibrafono e percussioni, Tom Fowler al basso, Chester Thompson alla batteria, Napoleon Manfred Brock, sassofoni e voce, oltre che Tush Tush. E naturalmente Mr. Frank Zappa. Thank you. In questa prima parte della notte di Rai Stereo Notte seguiremo questi sei musicisti nella loro performance di quella sera di settembre del 1974 ad Helsinki. In effetti una delle band più efficaci e più lineari di quelle delle tante che Frank Zappa ha guidato. We'll be right back. Questa era Inca Roads, una delle tre cose che abbiamo ascoltato finora da questo concerto di Helsinki, che è la capitale della Finlandia, non della Norvegia, come avevo detto. Come ho già detto, si trattava di una delle band più efficaci, almeno per chi ha un certo tipo di gusti. Naturalmente seguire tutta la produzione di Frank Zappa è qualcosa di impossibile, anche come dire, catalogare o giudicare tutte quanta la sua produzione e le tantissime bands che ha guidato. In questo caso c'erano con lui Napoleon Manfred Brock ai sassofoni e alla voce, George Duke alle tastiere, Ruth Underwood alle percussioni, Tom Fowler al basso e Chester Thompson alla batteria. Sicuramente musicisti che hanno rappresentato molto anche nella numerosissima, infinita genia di musicisti zappiani. Continuiamo ad ascoltare questo concerto del 1974 a Helsinki, e dopo aver ascoltato Tush Tush Tush, Stinkfoot e Inca Road, questa è Village of the Sun. Home to the village of the sun. una in punto. Questa era Village of the Sun e questo concerto continua con una scaletta perfetta dal punto di vista della produzione di quell'epoca. In effetti, per dedicare un'ora di trasmissione a Frank Zappa e decidere una scaletta propria significava sobbarcarsi un lavoro impressionante, anche perché quasi tutti i dischi suoi, i più recenti in particolare, sono missatissimi. Molto più facile affidarsi alla genialità anche nel missaggio di un pezzo con l'altro, affidarsi a Frank Zappa stesso, che già nel 1974 e anche prima sapeva anche dal vivo costruire delle vere e proprie scalette radiofoniche in un certo senso. E così, seguendo questo concerto non proprio alla lettera ma quasi, vivremo una sorta di alternanza di atmosfere, come era tipico nei concerti di Frank Zappa, nel suo modo di fare musica, che poi era d'altra parte sempre fortemente caratterizzato dalla sua personalità, un po' strampalata, un po' geniale, comunque condita da una grandissima sapienza di musicista. Questa era Echidna's Art of You. Come sentite, si va avanti serratissimi. Sequenze assolutamente obbligate e nello stesso tempo grande creatività e gioia di suonare. We'll be right back. Watch Ruth. All through our show, Ruth has been thinking, oh, it sure is slippery. In the percussion section today, I hope I don't fall down and hurt myself. In questa inesauribile sequenza di creatività e di logica, questa era Don't You Ever Wash That Thing. Fra breve verrà introdotto George Duke, che canterà Pygmy Twilight. Thank you. to raise me up a crop of dental floss.